249. Tortini di ricotta. Ricotta grammi 200, parmigiano grattato grammi 50, farina grammi 30, uova numero 2, prezzemolo tritato un pizzico, odore di spezie, sale quanto occorre. Formate un impasto coi suddetti ingredienti, versatelo sulla spianatoia, sopra a un leggero strato di farina e fategliene prender tanta con le mani infarinate da poter formare 12 crocchette morbide che schiaccerete alquanto. Mettete una sauté o una teglia al fuoco con un pezzetto di burro per rosolarle e quando avranno preso colore da ambedue le parti, bagnatele col sugo di pomodoro o conserva sciolta nell'acqua. Possono servir da tramezzo o possono essere portate in tavola accompagnate da una bistecca o da un pezzo di rosbife caldo.